arriverà con la macchina d'argento, fischiando lei dirà: adesso scendo. Con l'abito a metà, comprato fuori moda, volgare lui dirà: sempre una troia. Forza, cammina, la notte si avvicina, forza. Alle 9 parcheggerà in un parchetto scuro, la tettona scenderà, ecco l'abuso. Violento si armerà di pugnale e coltello, 6 colpi qua e là, omicidio perfetto. Le taglierà un dito facendo l'occhiolino, si aggira l'assassino nel tuo campo visivo. Usa la tua testa e poi vedrai che usando il tuo culo tu stimoli l'abuso. Porcellina attenta al lupo che vorrà tagliare il tuo dito facendo l'occhiolino, attenta. Alle 10 fermerà la sua macchina d'argento davanti al cinema, un faro spento. La tipa salirà facendo l'occhiolino, sorridendo lui dirà: ti va un panino. L'abito indecente non lo lascia indifferente, cara. Via per la città, dentro la discoteca, nel cesso ucciderà un'altra preda. 6 colpi qua e là, omicidio così perfetto, sorridendo si dirà: domani smetto. Forza, cammina, la notte si avvicina, si aggira l'assassino nel tuo campo visivo. Usa la tua testa e poi vedrai che usando il tuo culo tu stimoli l'abuso. Porcellina attenta al lupo che vorrà, si aggira l'assassino nel tuo campo visivo. Usa la tua testa e poi vedrai che usando il tuo culo tu stimoli l'abuso. Porcellina attenta al lupo che vorrà tagliare il tuo dito facendo l'occhiolino, attenta. Alle 3 ritornerà a casa, è naturale, e si addormenterà normale. Domani sentirà che lo stimolo non passa e la notte se ne andrà di nuovo a caccia. Allora metterai quell'abito decente che non attirerà la strana gente. Passa l'assassino scrutando il tuo viso, ma non si accorgerà mai del tuo sorriso, cara.